L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Et voilà, messieurs, dames, un applauso pour notre invité, monsieur Charles Aznavour. Intendiamoci, ci sono notizie di ben altra portata in questa settimana, notizie che andremo a rivivere secondo ormai la nostra formula collaudata, quindi una miscela di servizi estrapolati dai GR della settimana, più il contributo di un paio di inviati del Sole 24 Ore, quindi ben altra portata rispetto all'annuncio in francese sopra il Duomo di Milano fatto lunedì sera da Berlusconi, annuncio del cantante Aznavour. Comunque nella mia personale classifica delle notizie della settimana per importanza c'è sicuramente al primo posto la Fiat, che in poche ore ha annunciato lo scorporo delle attività e il trasferimento di un pezzo della produzione, un pezzo importante in Serbia, quindi di fatto due notizie in una, e tra poco daremo ampio spazio, lo spazio necessario all'approfondimento di questa notizia arrivata mercoledì. Poi sono arrivati tanti spunti dalla politica sul fronte delle intercettazioni, poi c'è la manovra sempre in discussione, l'autocandidatura di Vendola nella sinistra o nel centro-sinistra, il referendum sull'acqua, meglio la raccolta delle firme, davvero tante, per mantenere pubblico il settore, la gestione dell'acqua, poi c'è tutto il filone siciliano con l'anniversario della strage di Via D'Amelio del 19 luglio del 1992 e poi annunci di sviluppi clamorosi invece nell'inchiesta proprio sulla morte di Borsellino. Però visto che siamo in estate, fa caldo, voglio iniziare in modo anche più leggero, più frivolo, e dunque ho scelto di partire dalla settimana parallela di Berlusconi, parallela in quanto diversa, differente rispetto agli impegni della politica del Premier, che si è dovuto districare anche qui tra vicende spinose, tra problemi interni al PDL, una settimana parallela che possiamo definire spettacolare nel senso di votata allo spettacolo, allo show, una vena che per Berlusconi è davvero inesauribile. Lunedì sera dunque ha ritirato un premio sul tetto del Duomo di Milano davanti a 400 invitati selezionatissimi, si è parlato poi molto delle motivazioni di questo premio assegnato dalla provincia di Milano, ora guidata da un suo ex dipendente, motivazioni scritte con, diciamo così, un eccesso di zelo, con un tono un po' troppo oleografico. Tant'è, Berlusconi ha cantato, non in coppia con Aznavour come molti speravano o volevano, ma con la Moratti, con il sindaco, ha intonato O mia bella Madunina, poi ha ribadito la sua eterna lotta senza fine, senza quartiere, al cancro, ha rinnovato il, per la verità poco esaltante, repertorio di battute sulla bellezza della Bindi, mentre martedì è piombato alla laurea della figlia Barbara, è naturale che un padre vada naturalmente alla laurea della propria figlia, questo però ha inevitabilmente creato scompiglio, e poi sempre martedì ha finito per rubare la scena anche al nuovo allenatore del Milan Allegri al raduno del Milan, e su questo sentiamo il racconto di Nicola Accardo. I campioni del bilancio siamo noi! Contestano composti, con ironia e tanta delusione, i 5.000 tifosi che hanno invaso Milanello. Il bersaglio è Berlusconi, che allo stadio non va più e soprattutto non mette mano al portafoglio. Vinto il campionato del bilancio, il presidente di più non può offrire, al massimo può vendere, come ha detto ieri. Se arrivasse qualcuno in grado di spendere, come ha fatto la sua famiglia negli ultimi 25 anni. Pensiamo che questa rosa sia competitiva con qualsiasi rosa di altro club in Europa e in Italia. L'anno scorso è stata una stagione sfortunata per gli incidenti a catena che abbiamo avuto e devo aggiungere anche che la società non ha per gran parte del campionato condiviso il modo con cui il Milan e questi giocatori, questa rosa, ne è messa in campo dal pur bravo allenatore. Ho visto Ronaldinho! Così Ronaldinho, applauditissimo dai tifosi, diventa per Berlusconi il più grande calciatore di tutti i tempi. Rimarrà rossonero a vita, assicura il presidente, che al nuovo allenatore Allegri ha chiesto invece di vincere tutto. A patto, però, che giochi con due punte in attacco. Concedetemi una battuta feroce, sicuramente Ronaldinho a vita al Milan è il sogno di tanti tifosi interisti. L'ottavo giorno. Il servizio che adesso andiamo a riascoltare potrebbe stare tranquillamente in testa alla puntata di oggi, sarebbe stata una perfetta copertina e a mio avviso risponde alla voce regime che non c'è, almeno qui in Italia. Questo naturalmente non significa che tutto vada per il meglio, che non ci sia il diritto e a volte anche il dovere di criticare, però mi rivolgo a chi critica, è un discorso lungo che ho fatto anche tante volte qui all'ottavo giorno, se chi appunto è critico nei confronti del governo di Berlusconi, anziché agitare lo spettro della dittatura, usasse altri toni, altri argomenti, a mio avviso sarebbe più credibile e soprattutto più creduto. In realtà le notizie che dimostrano che non c'è regime in Italia sono almeno due in questi giorni. Una riguarda Santoro, che ritroveremo puntuale a settembre in Rai con Anno Zero o un programma similare, comunque per me è una bella notizia. E non è un caso che persino Confalonieri ha confessato pochi giorni fa che quasi quasi lo richiamerebbe a Mediaset, perché ricordiamoci che in tempi che sembrano lontanissimi anche Santoro ha lavorato nelle TV di Berlusconi. La seconda notizia che giustifica il fatto che non c'è il regime in questo paese riguarda il passo indietro deciso, non definitivo ma comunque importante e ammesso anche con un certo rammarico dallo stesso Berlusconi, il passo indietro del governo e della maggioranza sul disegno di legge sulle intercettazioni. Giovedì è stato prodotto questo parto dalla Commissione Giustizia della Camera con grosse novità, c'è una mano sicuramente meno pesante nei confronti dei giornalisti, sono stati tolti alcuni privilegi per i parlamentari. Comunque il giorno clou della settimana nel quale si è trovato la famosa quadra del cerchio all'interno della maggioranza è avvenuto martedì e sentiamo proprio Andrea Viali nel GR delle 13 del giorno successivo. Inizierà nel pomeriggio alla Commissione Giustizia della Camera l'esame degli emendamenti al DDL intercettazioni. Tra le modifiche c'è anche quella presentata ieri dal Ministero della Giustizia che ha permesso di raggiungere un accordo con la minoranza finiana. L'emendamento permette la pubblicazione delle intercettazioni definite rilevanti nel corso di un'udienza filtro. Un passo indietro rispetto al testo precedente che non è piaciuto al Premier Berlusconi. A finire che avremo una legge che lascerà pressappoco la situazione per quella che è adesso, cioè una legge che non consentirà agli italiani di parlare liberamente al telefono e non consentirà all'Italia di essere un paese davvero civile e democratico. Opposto invece il parere del Presidente della Camera, Fini. Prevale il buonsenso. Il Parlamento, mi sembra che dopo tanti dibattiti e tante polemiche, abbia trovato un ragionevole punto d'intesa ed era giusto, credo, all'interno del PDL fare la battaglia che abbiamo fatto. Dall'opposizione resta cauto il segretario del Partito Democratico Bersani. Per noi la legge che abbiamo visto fin qui è totalmente inaccettabile. Oggi si fa un mezzo passo e Berlusconi dice che non va bene. Adesso appena si sono messi d'accordo poi diamo la nostra valutazione. L'udienza filtro è un passo avanti, ma bisogna fissare i termini in cui dovrà svolgersi, commentano infine Federazione degli Editori e Sindacato dei Giornalisti. C'è un nesso tra le intercettazioni e il capitolo che invece apriamo adesso, che ci porta dritti in Sicilia, perché in questi giorni nell'isola c'è stata una sovrapposizione di avvenimenti significativi. Da un lato l'anniversario, il 18° della morte di Borsellino, il 18 luglio, lunedì di questa settimana, e a questo poi si sono sovrapposti gli sviluppi veri, presunti, da attendere, da chiarire, nell'inchiesta proprio sulla bomba a Via D'Amelio. Sentiamo due servizi che mettono insieme davvero tante cose e poi ne discutiamo con un ospite. Prima Irene Privitera nei GR di martedì mattina e poi Elisabetta Fiorito nei GR invece di mercoledì mattina. Due statue profanate, ricostruite di corsa e rimesse al loro posto a ricordare Paolo Borsellino e il suo amico Giovanni Falcone. La marcia delle agende rosse quasi disertata dai palermitani, dove i manifestanti parlavano con gli accenti del nord. Il ministro della giustizia che sceglie di scrivere una nota da Roma e non partecipa alle commemorazioni. Sembrerebbe un bilancio magro, quello del 18° anniversario della strage di Via D'Amelio. Ma c'è qualcosa di nuovo, dice il fratello del magistrato Salvatore Borsellino, ed è il fatto che finalmente siamo più vicini alla verità. Perché ribadisco che mio fratello è morto a causa di una trattativa tra mafia e Stato, al fatto che lui sarebbe stato ostacolo rispetto a questa trattativa. Il presidente della Camera, presente alla fiaccolata di ieri sera insieme ad altre 500 persone, dice: è chiaro a tutti che non fu solo mafia. E viene applaudito quando parla di Vittorio Mangano, lo stagliere di Arcore, come di un uomo condannato per mafia che non può essere definito un eroe. Questo è il suo commento richiesto da alcuni ragazzi alle parole del senatore Dell'Utri. Arrabbiata la sorella del giudice. Basta minuti di silenzio, dobbiamo parlare e vogliamo la verità, della quale, ha aggiunto, cominciamo a sentire il profumo. I dubbi, le incertezze, le paure potrebbero, dopo tanti anni, non essere così remoti. I PM di Caltanissetta rivelano: siamo a un passo dalla verità sulle stragi del 92, sulla strage di Via D'Amelio. Si ipotizza il coinvolgimento di pezzi deviati dello Stato e dei servizi segreti. Prima di entrare in commissione antimafia convocata a Palermo, Nicco Gozzo dichiara: Lo Stato è in grado di raccogliere questa verità, il problema è se c'è una politica in grado di raccogliere questa verità. Segue il procuratore di Caltanissetta, Sergio Lari. Oggetti che pur appartenendo alle istituzioni statali hanno tradito ai doveri di fedeltà alle istituzioni, quindi sono dei traditori, sono costoro che devono temere. Lo Stato si dovrà vergognare nella misura in cui ci si vergogna di qualcuno che in famiglia tradisce diciamo, quelle che sono le regole. Ma il presidente della Commissione Antimafia, Giuseppe Pisanu, smentisce. Nego decisamente che i magistrati di Caltanissetta abbiano dichiarato di essere ad un passo dalla verità e che la politica non sarebbe in grado di reggere il peso di tale verità. E dietro tutto questo ci sarebbero le dichiarazioni del pentito Gaspare Spatuzza. Abbiamo sentito allora le voci di Irene Privitera prima e Elisabetta Fiorito poi, adesso voliamo in Sicilia a Palermo dove ci sta ascoltando Nino Amadore, corrispondente del Sole 24 Ore. Buongiorno Nino, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci troviamo dopo la sentenza dell'Utri, ancora vicende complicate dalla Sicilia che si intrecciano con la mafia. Abbiamo pochi minuti, io ho delle domande precise, naturalmente mi affido alla tua competenza per le risposte. Prima domanda, in pochi abbiamo visto, abbiamo sentito, abbiamo letto, sono andati alla commemorazione della strage di via D'Amelio, i 18 anni dalla morte di Borsellino e della scorta, abbiamo anche letto delle molte fragorose assenze politiche. Tu che stai lì sul posto, che idea ti sei fatto di tutto questo? Beh, la marcia su Castello Treggio, che poi è quella che ha provocato la polemica, era difficile da fare anche per una gente molto ben allenata, cioè qui c'erano quasi 40 gradi alle 8 del mattino, già fa molto caldo a Palermo, salire fino da sopra a piedi vi posso assicurare che non è, anche diciamo con tutto il bene che si vuole alla memoria di Paolo Borsellino, al magistrato che è un grande eroe, ma è molto difficile. Le assenze ci sono state, c'è stata l'assenza del ministro Alfano, poteva esserci il ministro Alfano per dare un segnale e per dimostrare diciamo che quanto lui sia legato alla figura di Paolo Borsellino, anche se poi è andato alla messa, e comunque diciamo ogni volta la commemorazione, il ricordo di Paolo Borsellino sembra essere quello che fra tutti è quello che divide di più, divide perché forse la gravità del fatto, il coinvolgimento anche di pezzi dello Stato è stato così forte da provocare dinamiche diciamo centrifughe e centripete nello stesso tempo, quindi un marasma. E non a caso sull'inchiesta che è tuttora in corso a Caltanissetta si accende sempre una miccia, in questo caso si è accesa anche in concomitanza con la ricorrenza. Abbiamo sentito la voce anche di chi sta indagando, ha parlato di verità vicine ormai alla conclusione di questa inchiesta e poi c'è stata quasi una minaccia, poi in parte rettificata nei confronti della politica. Hanno detto insomma che forse la politica non sarà tutta in grado di reggere l'urto di quello che verrà fuori da questa inchiesta. Io ti pongo una domanda veramente banale, però secondo me è fondamentale, cioè non è meglio dirle queste verità su via D'Amelio piuttosto che annunciarle, anticiparle a mezzo stampa? Ma questo, diciamo, le dichiarazioni fatte dai magistrati, devo dirti la verità, non sono nuovissime rispetto ad altre volte in cui sono state dette delle cose. Il problema è che ogni volta, anche dipende dal contesto, dal momento, dallo stato d'animo del paese, queste affermazioni diventano delle botte, dei colpi dei pugni allo stomaco. Ecco, Gozzo nella sua semplicità ha detto delle cose che stanno lì nell'inchiesta, poi certo è vero, l'aspirazione di tutti, il desiderio è quello di vedere un processo vero ai veri responsabili della strage di via D'Amelio, ai veri responsabili delle stragi nel nostro paese. Nino, ultima domanda, leggendo i resoconti anche i tuoi di questi giorni mi hanno colpito una serie di, non so se chiamarle incongruenze o comunque atteggiamenti diversi delle procure, perché non c'è solo Caltanissetta naturalmente che indaga sulla piovra, sulla mafia. Per esempio riguardo a Spatuzza, in questo caso sulla strage di via D'Amelio viene creduta fortemente la sua testimonianza, mentre per il processo dell'Utri le posizioni di Spatuzza non hanno avuto credito. Anche l'atteggiamento per esempio di Caltanissetta e Palermo su Ciancimino Junior sono diverse, Caltanissetta si appoggia alle sue dichiarazioni, Palermo un po' meno, poi in questi giorni sono uscite anche le motivazioni della condanna a suo carico di dicembre scorso. Anche qui contraddizioni difficili da spiegare, proviamo a mettere un punto in 30 secondi. Il punto è molto semplice, Spatuzza nel processo dell'Utri è stato sentito durante il dibattimento, quindi con margini molto, molto ridotti di approfondimento e di riscontro delle dichiarazioni, cioè il pentito non è l'oracolo, il pentito dice quello che ricorda, quello che sa, quello che ha sentito dire, quello che gli hanno raccontato e dunque ha bisogno di essere riscontrato, verificato e lì i margini erano veramente pochi. Diversa è la posizione dei magistrati di Caltanissetta che sulla base delle dichiarazioni di Spatuzza stanno facendo riscontri, stanno cercando prove, stanno cercando, ricostruiscono un quadro e quindi sono arrivati anche a fondo. Per Ciancimino la situazione è molto complessa perché a Caltanissetta Ciancimino non viene creduto molto perché evidentemente non è riuscito a supportare quello che dice con delle prove concrete, mentre a Palermo, dove parla della trattativa, l'inchiesta è diversa, ricordiamo Caltanissetta indaga sulle stragi, mentre Palermo indaga sulla trattativa tra lo Stato e la mafia, quindi diciamo quella è l'effetto, questa si dice sarebbe la causa, la trattativa è la base della strage di Via D'Amelio. Allora, per quanto riguarda la trattativa invece Ciancimino è stato forse in grado di dimostrare con i fatti, con i documenti, questa trattativa tra lo Stato e la mafia, mediata dal padre Don Vito, ci sarebbe stata. Grazie a Nino Amadore, ci risentiremo presto magari per nuovi sviluppi dalla Sicilia. Grazie a voi. E allora abbiamo ancora un minuto invece, lo voglio sfruttare per addentrarmi nella selva oscura delle indagini sulla P3. Da un lato aumenta il fronte dei magistrati coinvolti e credo non sia un caso che ieri nella cerimonia del ventaglio addirittura Napolitano abbia parlato di squallore di fronte a questo magma della P3 che si sta muovendo, dall'altra però al centro dell'inchiesta rimangono molti esponenti del PDL. Sentiamo su questo Andrea Viani nel GR delle 7 di giovedì. Tracce di operazioni illecite o del passaggio di eventuali tangenti le stanno cercando gli inquirenti che indagano sulla cosiddetta P3 e che per questo hanno incaricato la Guardia di Finanza di passare al setaccio alcuni conti correnti bancari in istituti del gruppo Unicredit, depositi gestiti a partire dal 2004 da due degli indagati, il coordinatore del Popolo delle Libertà Verdini e il faccendiere sardo Carboni. Con una nota l'esponente del PDL ieri ha replicato al Corriere della Sera che aveva parlato di un tesoro da 2,6 milioni di euro a lui riconducibile. Sono soldi frutto di sacrifici e non di misfatti, ha assicurato Verdini. Il guardasigilli Alfano invece ha difeso in aula alla Camera il sottosegretario alla giustizia Caliendo, anche lui coinvolto nell'inchiesta. L'ottavo giorno. Questa terza parte della trasmissione di oggi avrà un'impronta decisamente economica. Il punto focale della settimana sono senza dubbio le scelte di Fiat di scorporare da un lato le attività e dall'altro di trasferire un pezzo importante della produzione in Serbia. Non a caso tra pochissimi istanti ci collegheremo con Andrea Malan per approfondire il tema. Però prima vorrei fare un paio di accenni ad altre questioni economiche in Italia importanti. Allora, intanto ricordiamoci che martedì l'Istat ha pubblicato i nuovi dati aggiornati a maggio su ordinativi e fatturato. C'è un aumento incoraggiante, un segno di ripresa che comunque prosegue ancora, insomma la strada è lunga, forse soltanto nel 2012-2013 torneremo ai livelli precedenti al crack Lehman Brothers, quindi all'inizio della crisi, però insomma la strada è in segno più in segno positivo. Poi c'è sempre la manovra fortemente voluta e difesa da Tremonti, sempre protagonista in Parlamento e accanto al Parlamento. Le regioni ancora giovedì hanno mostrato la loro delusione, mentre lunedì, a proposito di manovra, si sono invece fermati i medici, hanno fatto sciopero, hanno protestato per i tagli. Sentiamo su questo Maria Chiara Grandis. 24 ore di sciopero e presidio davanti a Palazzo Montecitorio. In camice bianco e con le vuvuzelas, medici, veterinari e dirigenti sanitari arrivano a Roma per manifestare contro il decreto anticrisi. Verranno colpiti i giovani in maniera feroce. Il problema è la mancanza di una visione. In piazza 200 persone. L'astensione dal lavoro ha superato il 70% per i sindacati di categoria e mentre il ministro della salute Ferruccio Fazio ribadisce che il blocco del turnover non riguarderà la sanità pubblica, i sindacati chiedono certezze. Costantino Troise, segretario ANAO Assomed. Lo scrivano. Ciò che va precisato è che questa questione, compresi i licenziamenti precari, non riguarda la sanità. Già interessata da un'uscita spontanea di 30.000 medici nei prossimi 4 anni. Preoccupano anche i tagli alle regioni previsti dalla manovra, ma non solo. Massimo Cozza, segretario segretario della funzione pubblica CGIL Medici. Il potere ha i direttori generali nominati dalla politica di togliere incarichi e retribuzioni anche ai medici giudicati bravi. Garantite solo le prestazioni d'urgenza, ieri sono saltati 40.000 interventi chirurgici, molte di più le visite specialistiche annullate. Dalle associazioni dei consumatori arriva l'invito a non prendersela con i malati. E prima di passare alla Fiat, non mi posso e neanche mi voglio dimenticare invece del nuovo passo sul federalismo, che anche questa è una riforma capitale, la riforma forse delle riforme per il presente e il futuro di questo paese. Tra l'altro un discorso che non è certo svincolato al tema della tanto discussa manovra di questi tempi. Sentiamo sul federalismo le novità con Simone Spezia ieri mattina. È il secondo passo dopo il decreto sul federalismo demaniale. Il governo ha varato ieri la bozza del provvedimento per la definizione dei fabbisogni standard di città metropolitane, comuni e province. I criteri, in sostanza, attraverso i quali si definiranno i trasferimenti dallo Stato a questi enti locali. Di certo c'è che la definizione degli standard per i servizi avverrà anche in base al giudizio degli utenti e vi sarà un momentaneo blocco dei fondi ai comuni che non collaborano. Entro fine mese poi dovrebbe arrivare il decreto forse più atteso, quello sui costi standard delle prestazioni sanitarie, che dovrebbe consentire di ridurre le differenze tra regioni, come quella, è un esempio tra i tanti, sulle analisi del sangue in Emilia e Campania, il costo è di 30 centesimi e 6,5 euro rispettivamente. Ma c'è un altro capitolo ancora, quello dell'autonomia impositiva dei comuni. Giulio Tremonti chiarisce, dopo la devoluzione delle tasse sugli immobili, li spingeremo ad accorpare le imposte. Noi ci abbiamo 24 tributi comunali, magari sono un po' tanti. Noi pensiamo che sia civile unificare questi tributi che si sono stratificati nel tempo. Saranno i comuni che scelgono se arrivare ad uno, due, tre, quattro. Mistifica, secondo il ministro dell'economia, chi parla di nuova ICI. Tremonti conferma infine che si sta lavorando su una cedolare secca sugli affitti. E adesso andiamo a Detroit, dove è in collegamento, e lo ringrazio per l'ora notturna che ci ha concesso, Andrea Malan, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno, buonanotte Andrea. Sì, buongiorno a tutti. Allora, dobbiamo parlare di Fiat, naturalmente ne ho già parlato in apertura di programma. Io prima ho una domanda flash, perché poi voglio subito mandare un servizio per inquadrare la questione. Cioè, vorrei capire se è un caso che quando Marchionne deve fare degli annunci importanti come quelli di questi giorni, tra l'altro Marchionne che sfoggia sempre questo suo pullover blu d'estate, d'inverno, a Pomigliano, in America, insomma, è unicolore quasi, insomma, e uniabbigliamento. Comunque, al di là di questo, perché Marchionne, quando fa questi annunci, si trova sempre lontano dall'Italia, nella fattispecie negli Stati Uniti? Più che un caso direi che è un simbolo del fatto che la Fiat di Marchionne, soprattutto dopo l'intesa con la Chrysler, è sempre meno italiana e sempre più internazionale. Quindi il consiglio di amministrazione si è tenuto in questi giorni a Detroit, e la prossima volta potrebbe tenersi, che so, in Brasile, dove Fiat ha delle attività enormi, piuttosto che ne so, fra qualche anno in India. E mi sembra che le notizie di questi giorni confermino questa linea globale, internazionale, poco torinese, poco italiana della Fiat. Veniamo allora a quello che è successo in questi giorni, perché sicuramente la vicenda Fiat si può articolare in due parti. La prima, che è stata applaudita da tutti o quasi, è quella dello scorporo, abbinata tra l'altro a dei dati di bilancio confortanti. La seconda, che invece è stata criticata da quasi tutti, è quella dello spostamento di una fetta importante di produzione in Serbia. Sentiamo i dettagli sulla prima parte della mela, diciamo così, quella riguardo lo scorporo, con Stefano Totoro nei GR di mercoledì mattina. I licenziamenti degli ultimi giorni di alcuni operai della Fiat dividono ancora una volta i sindacati, proprio nel giorno in cui il CDA del Lingotto approva la divisione in due della società. Nascerà Fiat Industrial, un'azienda in cui confluiranno i debiti e tutta la produzione dei veicoli agricoli e industriali. Sarà quotata a Piazza Affari e avrà un proprio management e una propria struttura societaria. E così si concretizza lo scorporo annunciato nei mesi scorsi dall'amministratore delegato Marchionne. Fiat si fa in due e separa da tutto il resto il settore auto. Una scelta di chiarezza strategica e finanziaria, dicono dal gruppo. Il tutto avviene in un momento economico positivo, con un utile netto nel secondo trimestre di 113 milioni di euro contro una perdita di 179 milioni nel secondo trimestre dello scorso anno. Ma se oltreoceano nel quartier generale di Chrysler il CDA brinda, in Italia la CGIL tuona contro i licenziamenti degli ultimi giorni, l'ultimo dei quali a Termoli. Epifani attacca: è uno stillicidio di atti contro il buonsenso e contro ogni misura, dice il segretario CGIL. E si apre uno scontro, l'ennesimo, con la CISL. Bonanni invita i lavoratori a non cadere nella trappola della FIOM. Intanto interviene anche il ministro del welfare Sacconi. Da parte di Epifani dice c'è una lettura sbagliata dei fatti. Poi nel frattempo è arrivata la notizia shock del spostamento in Serbia di parte della produzione, che ha quasi messo in secondo piano il discorso dei licenziamenti. Ieri ci sono state anche proteste a Mirafiori. Andrea Malan, sempre in collegamento da Detroit. Io con te voglio essere tranchant, perché so che tu anche ami parlare chiaro. A me sembra di capire che due annunci come quelli che ha fatto Marchionne, cioè lo scorporo da una parte e lo spostamento in Serbia della produzione dall'altra, siano in fondo uno conseguenza dell'altro, cioè un'azienda sempre più globale com'è e vuole essere la Fiat, che non ottiene più aiuti di Stato, cosa che per esempio in America invece Obama ha fatto per la Chrysler, per aiutarla a salvarla. Insomma, tutto questo rende quasi fisiologico il fatto che si possa spostare altrove, nella fattispecie in Serbia, la produzione, o mi sbaglio? Beh, diciamo che si potrebbe girare il ragionamento. Cioè, la produzione di auto di questi tempi spesso va dove ci sono degli aiuti. Marchionne ricorda più volte il fatto che appunto la Chrysler è stata salvata e tuttora viene gestita coi soldi del contribuente americano, che altro si è impegnata a restituire nel giro di pochi anni se le cose andranno bene. Ma per esempio ricorda che in Messico la 500 verrà prodotta investendo 500 milioni di dollari nello stabilimento della Chrysler, di cui 400 milioni, cioè l'80%, arriverà con prestiti agevolati del governo messicano. E lo stesso varrà in parte per la Serbia, dove di 1 miliardo di euro di investimento totale previsto, un quarto arriverà dal governo locale. Quindi diciamo che in questo mondo globale c'è anche un po' un'asta al rialzo, paradossalmente, da parte delle case automobilistiche, che cercano di ottenere le condizioni migliori. Quando la Volkswagen 2 anni fa doveva scegliere dove negli Stati Uniti costruire un nuovo stabilimento, si sono presentati 3 o 4 stati, fra cui il Michigan, offrendo aiuti e agevolazioni. Poi ha vinto il Tennessee, quindi anche la Volkswagen è andata nel sud come i giapponesi. Insomma, per farla breve, è un dato che indubbiamente favorisce le case automobilistiche, cioè in questo momento, da questo punto di vista, certamente Marchionne ha il coltello dalla parte del manico, e quello che sta cercando di fare è di estrarre una serie di cambiamenti nelle condizioni di lavoro e di concessioni da parte dei sindacati, che gli permettono di avere stabilimenti più efficienti e più competitivi, portandoli a livello, per esempio, di quello in Polonia, da cui escono le Panda e le 500. Tra l'altro, Andrea, se ti ricordi bene, noi già parlammo della Serbia in occasione del referendum di Pomigliano. Prima del referendum, la Serbia, diciamo, era il piano B per Marchionne, per spostare la produzione della Panda, in quel caso, se fosse andato male il referendum nello stabilimento di Pomigliano. Certo, la Serbia è anche tra virgolette un problema per la Fiat, nel senso che la Fiat ha firmato questo accordo nel 2008, per ora si producono le vecchie Punto in Serbia, in qualche decina di migliaia di unità l'anno, e però non è ancora stato individuato un modello dove da produrre lì. Si era pensato a quella che era stata chiamata una volta la Topolino, ma il progetto è ancora molto indietro. Si era pensato quasi a un'auto low cost anche da esportare. Quindi il dire facciamo il monovolume lì è anche un modo per, diciamo, riempire quello stabilimento, preoccupandosi poi dopo di vedere cosa succederà a Mirafiori. Diciamo che da questo punto di vista fa gioco a Marchionne su entrambi i fronti. Andrea, un'altra questione. Qui in Italia c'è stato uno sconcerto generale per questo annuncio di Marchionne di spostare la produzione in Serbia. La politica è insorta, i sindacati sono insorti. Abbiamo visto anche una certa prudenza di Confindustria, qui naturalmente come Radio 24 giochiamo in casa, ma insomma il presidente Emma Marcegaglia ha detto che incontrerà presto Marchionne. Insomma, tutti sembrano delusi o sorpresi da questa scelta di Marchionne, e poi ci sono peccati originali a monte. Insomma, manca il ministro delle attività produttive, quindi il governo ha delle sue responsabilità, il sindacato con la FIOM eccetera non ha mai scelto una linea ben chiara. Insomma, c'è un problema complessivo di politica industriale che manca in questo paese. Eppure tu come giudichi questa cosa, considerando che Marchionne ha parlato ancora una volta chiarissimo, ha detto se non ci fosse stato il problema Pomigliano avremmo lasciato la produzione in Italia e a Mirafiori? Diciamo che Marchionne è abituato, oltre a parlare chiaro, anche a cercare di vedere le cose in maniera chiara, cosa che in Italia non sempre è possibile. Lui fa sempre il confronto con la Chrysler, dove peraltro, ricordiamo, gli operai e i sindacati, l'unico sindacato, la UAW, ha accettato diminuzioni di salari, condizioni di lavoro diverse, eccetera, per il fatto che l'azienda era sull'orlo del fallimento. Lì ovviamente non avevano alcuna scelta. Comunque è stato molto più semplice ed è tuttora più semplice per un'azienda venire a patti e mettersi a un tavolo col sindacato. Qui da noi i sindacati sono numerosi, la politica ha un ruolo diverso e quindi è tutto più complicato. Diciamo che Marchionne vorrebbe fare le cose più in fretta e più semplicemente. In Italia a volte non è possibile, lui manifesta una certa insofferenza. Peraltro appunto le scelte che sta facendo la Fiat in questo periodo non sono così diverse da quelle che fanno altri costruttori europei. Io ricordo il caso della Renault, che pur essendo un'azienda in parte partecipata dallo Stato ha comunque delocalizzato parecchio negli ultimi anni, mantenendo in Francia un numero di stabilimenti non molto diverso e anche una produzione di vetture in termini quantitativi non molto diversa da quella che ha attualmente la Fiat. Quindi diciamo che da un certo punto di vista la tendenza alla globalizzazione e allo spostamento di produzioni a costi più in paesi a costi più bassi è un dato di fatto oramai da molti anni. Andrea, ti ringrazio, ti lascio alla tua notte americana a Detroit. Io invece volto pagina, perché tra poco dobbiamo dare notizie dal traffico, dandovi un altro dato sul quale chiunque di voi all'ascolto può naturalmente riflettere, perché nell'ultima classifica del Doing Business della Banca Mondiale, cioè la classifica a livello mondiale dello stato di salute del business, tenendo conto di vari fattori, la burocrazia, il sistema fiscale, il sistema delle leggi in un paese, ebbene l'Italia è al 78esimo posto davanti alla Serbia, che è di 10 posizioni staccata, cioè all'88esimo posto. Però nello specifico della certezza dei contratti, pensate, Belgrado è 97esima, mentre l'Italia è addirittura 156esima. Chissà se Marchionne aveva sotto mano questa classifica nello scegliere di spostare parte della produzione in Serbia. L'ottavo giorno. Abbiamo lasciato Detroit e Andrea Malan, noi però continuiamo a volteggiare sugli Stati Uniti e sul presidente Obama, che come sempre ha avuto un'agenda fittissima in questi giorni. Ha incontrato il collega inglese Cameron, una grande cordialità, grandi battute anche tra i due, poi hanno naturalmente parlato di argomenti molto seri. Sicuramente Obama ha tenuto anche un occhio per la conferenza in Afghanistan e poi Obama si è districato tra due cose importanti: da un lato una notizia positiva alla riforma di Wall Street e dall'altro sicuramente continua ad avere grosse preoccupazioni sulla famigerata marea nera, e tra l'altro c'è pure la tempesta tropicale che si è messa di mezzo e ha complicato, anzi ha sospeso i lavori della BP. Su questi due ultimi aspetti sentiamo giovedì mattina Sergio Nava e poi dal giorno precedente, mercoledì, Cristina Balotelli. Onorato di firmare la legge che riforma Wall Street, il presidente americano Barack Obama ha posto il proprio nome in calce alla normativa che rafforza i controlli sulle compagnie finanziarie e fa ordine nel settore dei derivati e istituisce un regolatore a protezione dei consumatori. Normativa fortemente voluta dalla sua amministrazione, al punto che viene considerata come uno dei pilastri del suo mandato. Poco lontano il presidente della Fed Ben Bernanke avvertiva però che le prospettive dell'economia americana restano incerte, promettendo di intraprendere azioni di politica monetaria quando sarà necessario per garantire la stabilità dei prezzi. Parole che non hanno rovinato la festa di Obama, fresco di vittoria congressuale. These reforms represent the strongest. Affiancato dai maggiori sostenitori della riforma, il presidente americano ha definito questa legge come la maggiore protezione finanziaria per i consumatori nella storia e l'ha spiegata con esempi concreti per dimostrare come porrà fine alla politica delle tariffe contrattuali e delle penalità nascoste. Ora saprete cosa firmate quando accetterete dei contratti, ha concluso, prima di apporre la propria firma sulla legge. Come riconquistare la Casa Bianca dopo la catastrofe della marea nera che ha sconvolto la vita di 4 stati? La soluzione che avrebbero trovato 4 delle maggiori società petrolifere del mondo è quella di una joint venture per creare un sistema che fermi le possibili fuoriuscite di petrolio nel Golfo del Messico. Lo scrive oggi il Wall Street Journal, secondo cui le società coinvolte sono ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell e ConocoPhillips. Obiettivo della joint venture? Progettare, costruire e gestire un sistema di pronto intervento che possa raccogliere e contenere fino a 100.000 barili di petrolio che sgorga a 3.000 metri di profondità. Il sistema è formato attraccato da diverse navi per la raccolta di petrolio e da un insieme di macchinari subacquei ed è simile a quello sviluppato da BP nei 3 mesi della crisi della Marea Nera. La Deepwater Horizon è esplosa lo scorso 20 aprile e ancora non è stata messa la parola fine alla catastrofe. L'investimento iniziale dei 4 colossi del petrolio è di $1 miliardo, ma il costo complessivo sarà di diversi miliardi nei prossimi anni. La Marea Nera fa danni e fa paura. Obama tra l'altro ha annunciato che andrà in vacanza in Florida. Insomma, il presidente deve fare anche questo per cercare di dare un'immagine positiva di fronte a questo disastro inenarrabile che sicuramente entrerà tristemente nei libri di storia. Però vi segnalo che nella vicina Louisiana, che si affaccia proprio sul martoriato Golfo del Messico e che vive di petrolio, perché ci sono 60.000 posti di lavoro attorno al petrolio e $70 miliardi di entrate, si sta preparando in pompa magna la 75esima edizione della Louisiana Shrimp and Petroleum Festival, ovvero tanta musica, litri a fiumi di vino, fuochi d'artificio, gamberetti a volontà, il tutto sponsorizzato dal Petroleum Institute of America. Appuntamento a Morgan City tra poche settimane. Insomma, queste sono le contraddizioni della vita e dell'economia in tempo di crisi. Torniamo però adesso in Italia, perché la settimana scorsa siamo rimasti tutti sconvolti, e ne abbiamo parlato a lungo qui all'Ottavo Giorno, dagli arresti di 'Ndrangheta nel milanese e più in generale in Lombardia. Martedì arriva un nuovo capitolo inquietante dal capoluogo lombardo, comunque collegato alle vicende di 'Ndrangheta. Ci racconta tutto, o non solo, ma comunque insomma l'argomento si può sempre inserire nello stesso filone. Sentiamo i dettagli con Raffaella Calandra. Dalla griffo di un archistar ai sigilli della Guardia di Finanza per inquinamento della falda acquifera e discariche abusive, dai prati verdi delle brochure alle foto degli scavi pieni di macerie usate anche per la barriera antirumore della tangenziale est. Ecco la storia ultima del progetto Monte City Santa Giulia e ultima tegola giudiziaria per l'immobiliarista Luigi Zunino. Una storia raccontata per ora dal decreto di sequestro preventivo del GIP, che ha chiuso l'area dove un tempo la Monte Edison produceva pesticidi e le acciaierie Redaelli erano in attività. La ragione: sostanze cancerogene oltre i limiti trovate anche in 2 falde che arrivano agli acquedotti, ma la società titolare dei servizi idrici assicura la bontà dell'acqua. C'è una bomba biologica, denuncia Cesarina Ferruzzi, manager del gruppo Green Holding, impegnato nelle bonifiche e tra gli indagati nel primo filone di questa inchiesta su irregolarità nelle fatture. La bomba sarebbe fatta di sostanze cancerogene mischiate, rischiose per la fertilità, annota il GIP. E se 2 teste definiscono strano che fosse stato approvato solo un piano di scavi, quindi meno radicale, Grossi, dominus della Green Holding, va oltre. Se si fosse fatta una bonifica, dichiara, si sarebbero dovuti spendere €500 milioni almeno. L'altro capitolo per ora adombrato riguarda gli enti locali. La concessione edilizia poteva essere rilasciata solo dopo che la provincia avesse certificato l'avvenuta bonifica, si riporta nel decreto. Un'annotazione, ma che potrebbe spalancare il capitolo pubblica amministrazione. Stiamo avvicinando alla conclusione della puntata di oggi, abbiamo ancora uno spicchio di trasmissione che possiamo dedicare allo sport. Qui potevo davvero pescare tra un ricco carrello di notizie. Per esempio, sul fronte del ciclismo c'è stata la mitica tappa del mitico arrivo al Tourmalet sui Pirenei, momento storico, sacro del Tour de France. Poi per il calcio c'è la vicenda bruttissima legata alla prostituzione di Benzema e Ribéry, 2 giocatori francesi, quindi coda polemica e amara di un mondiale già bruttissimo della Francia. Sempre per il calcio c'è tutta la vicenda del mercato, per esempio la trattativa su Balotelli, l'Inter, il Manchester City, e su questo Beccantini, grande firma della stampa, ha parlato di un paese tutto d'un prezzo con la R, attenzione, quindi grande sagace ironia di Beccantini. Però visto che parliamo di sport, voglio parlare del campionissimo Valentino Rossi, tornato in pista ad 1 mese e mezzo dal grave infortunio alla gamba. Ha dato spettacolo, è stato stravisto in televisione, e ha di fatto stravinto il suo Gran Premio, perché è arrivato 4º, quindi a ridosso del podio. Sentiamo su questo il contributo lunedì mattina di Massimo Di Scienza, molto ironico e anche con un pizzico di veleno. Il podio l'ha solo sfiorato, ma il vero obiettivo a livello polemico l'ha centrato in pieno. Per Valentino Rossi l'avversario più gustoso da attaccare in questo momento è proprio la Yamaha, di cui difenderà i colori fino a novembre. Quel team che preferisce il campione in ascesa, Jorge Lorenzo, a lui campione maturo e che, secondo la velenosa ironia di Rossi, lo lascia andare via perché è solo un vecchietto. Ecco quindi un altro possibile motivo del rientro lampo di Rossi. Va bene la noia da divano, va bene la voglia di stupire, ma alle spalle del rientro a tempo di record c'è forse anche il gusto sadico di rendere più difficile il previsto e prevedibile trionfo iridato del compagno di team, che, tanto per non smentire la chiacchierata idiosincrasia per Valentino, ha interrotto una serie vincente proprio in occasione della rentrée del collega di team. Rossi in pista e Lorenzo giù dal gradino più alto del podio. Il prossimo anno finalmente i due duellanti potranno sfidarsi apertamente vestendo colori opposti, ed allora sì che ci sarà da divertirsi. Abbiamo finito in questo sabato afoso, almeno qui a Roma. Ottavo giorno è radio24.it. Ringrazio regia Alessandro Chiappini. Noi ci troviamo come sempre sabato prossimo, poco dopo le 9. Tutta la settimana siamo su podcast sul nostro sito www.radio24.it.